Savonarola, il frate che fece miserere a Firenze e non era quello di Pavarotti. Stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari che per percorrere in treno la distanza Milano-Roma ci impiegava 2 giorni perché le locomotive a vapore non facevano più di 60-90 km orari e perché le strade ferrate erano uno spezzatino. E lette da me che per percorrere la distanza Milano-Roma ci impiego poco meno di 3 ore perché le locomotive odierne fanno anche 400 km all'ora ed è tutto un binario da Reggio Calabria a Copenaghen. C'è un però. Per fare Firenze-Milano, pur a tutta birra, ci si mette oggigiorno indicativamente 1 ora e mezzo e ci scappa spesso qualche minuto di ritardo. Ma al tempo in cui i treni partivano e arrivavano in orario, tempi che né Villari né io abbiamo vissuto, lui, come lo chiamavano allora, fece volare un treno da Milano a Firenze in 1 ora e 55 minuti. O così diceva la propaganda, propaganda che esisteva sia ai tempi di lui, sia ai tempi di Villari, sia nei miei. E la propaganda è sempre uguale a se stessa e non cambia le sue finalità nel tempo. D'altra parte dice il proverbio, chi guarda ogni nuvolo non fa mai viaggio e comunque nella terra del tiranno tristi quelli che vi stanno. Serio, capitolo 10, volume 2. Milite esente? No, riformato! In questo medesimo tempo continuava attivissimo il carteggio fra la Repubblica e il Papa. Da una parte il Santo Padre pregava, domandava, voleva che, esaminato e torturato il Savonarola, glielo dessero vivo nelle mani. Dall'altra la Signoria non lo poteva concedere senza grave offesa alla dignità della Repubblica. Essa perciò teneva in parole il Santo Padre, chiedendo con nuove istanze quella decima ecclesiastica proposta e sostenuta dal Savonarola con tanto calore e cagione di tante accuse contro di lui. La pratica provava e confortava questo procedere della Signoria. Pareva che da ogni lato si volesse mercanteggiare la vita del misero frate per ottenerne in cambio quelle medesime concessioni che gli aveva propugnate e che ora gli facevano sostenere il martirio. Intanto si avvicinava il termine per la elezione della nuova signoria e la pratica veniva tutti i giorni radunata. Il 27 e 28 d'aprile i signori la interrogavano. In che modo rispondere al Papa? Come provvedere al danaro? Come tenere la città quieta? Ed il Vespucci, la cui voce prevaleva sempre in queste discussioni, consigliava di continuare sempre a temporeggiare con Roma, prolungare l'esamina dei tre frati onde poterne rimettere la decisione alla nuova signoria, usare indulgenza agli altri accusati, quanto al danaro e all'ordine della città se ne rimetteva interamente alla discrezione della presente signoria, la quale, seguendo i consigli avuti, conduceva a termine gli altri processi, condannando 18 cittadini alla pena di qualche taglia o confine e alla perdita degli uffici per qualche anno. A molti fu concessa piena amnistia, quelli che avevano combattuto contro i piagnoni, quelli che avevano assassinato il Valore e la sua famiglia, non subirono neppure un processo. Per mostrare poi amore alla libertà e odio ai medici, si tolse ogni bando di ribelle che ancora gravava sopra Alessandro e Lamberto dell'Antella, rivelatori della congiura di Piero. Restava da pigliare un ultimo provvedimento per fare in modo che, nella prossima elezione, la nuova signoria risultasse tutta nemica del Savonarola, altrimenti invano s'erano violate le leggi e la fede pubblica, invano lo avevano tormentato e lacerato. Se i piagnoni venivano in ufficio, il Savonarola sarebbe stato non solamente salvo, ma ancora vendicato. La infamia del suo processo sarebbe stata pubblicamente rivelata al mondo. A tutto ciò fu assai facilmente rimediato. Il giorno in cui si radunò il Consiglio Maggiore, onde procedere alla elezione dei magistrati, ne vennero esclusi con nuova ed incredibile enormezza non meno di 200 cittadini dei più popolari. E in questo modo risultò gonfaloniere di giustizia un messer Vieri de' Medici che era degno del nome che portava ed una signoria simile in tutto alla precedente. I nuovi magistrati trovavano l'opera già avviata, non dovevano perciò fare altro che continuare nella medesima via e suggellare col sangue un delitto già in gran parte consumato. Venuta appena in ufficio questa signoria, subito raccolse la pratica il giorno 5 di maggio per chieder consiglio sulla condotta da tenere. Si rispose da alcuni. che bisognava insistere appresso al Papa perché l'esecuzione della sentenza avesse luogo dove aveva avuto luogo il delitto, ma quando pure si credesse necessario di cedere, si cercasse almeno con una nuova esamina a cavare da quei tre frati qualcosa di più esplicito. Girolamo Rucellai appoggiò il medesimo parere e, sostenendo la necessità di un nuovo esame, concludeva: «Tanto più che udiamo se ha avuta la nuova tortura!» Riferiva forse a qualche strumento nuovo e più crudele per strappare agli accusati la voluta confessione. Di poi si levò a parlare in nome dei 10 nuovi Messer Piero Popoleschi, e le sue parole dovettero avere un gran peso perché, essendo stato gonfaloniere di giustizia nella passata signoria, aveva regolato e condotto il processo del Savonarola. Egli insisteva sulla necessità di scrivere a Roma, a ciò la sentenza abbia luogo in Firenze, dove sono ancora molti che persistono nella devozione al frate, e quando il Papa vuol sapere altro può mandare suoi commissari a far nuova esamina dei frati. Intanto non si esiti a chiedere licenza di farli degradare per consegnarli al braccio secolare. Ma qui, venendo a parlare del nuovo processo che da alcuni della pratica si desiderava, senza avvedersene faceva una singolare confessione. Quanto all'esaminarli di nuovo, giudicano quei miei signori doversi sopire qui, essendosi fatta la esamina come la s'è fatta, e per quiete e riposo della città, perché ritrattando questa cosa potrebbe inducere scandalo. Il Popoleschi adunque non voleva un secondo processo, perché temeva non si venisse a mettere in chiaro la falsità del primo e a compromettere tutto il giudizio. Dei commissari del Papa egli non dubitava, perché li conosceva pratici del mestiere e, aiutati da Ser Ceccone, non potevano fallire nel loro intento. La signoria, persuasa dalle parole del Popoleschi, scrisse al Papa che, lasciatosi finalmente persuadere, il giorno 11 di maggio mandava al vescovo dei Paganotti in Firenze un breve in cui si annunziava il prossimo arrivo di 2 commissari apostolici con la facoltà di esaminare gli errori e i delitti di iniquità di quei 3 figli di perdizione. Conoscendo il Borgia, come quel vescovo era amico e discepolo del Savonarola, volle con raffinata crudeltà imporgli che dovesse con le proprie mani degradarlo per quindi consegnarlo al braccio secolare. Ma fino al 19 maggio i commissari apostolici non vennero, e così il Savonarola, che si trovava nella prigione dell'alberghettino sin dal giorno 19 aprile, ebbe un mese di solitudine e riposo nel quale potette alquanto rinfrancare le forze. Nei primi giorni era lacero e fiaccato in modo che non poteva muovere le braccia, ma poi migliorò il destro, che soleva essere alquanto risparmiato nella tortura, a ciò l'accusato potesse, secondo le leggi, distendere di sua mano la propria confessione. Così il Savonarola prese la penna e scrisse: «Le meditazioni composte in prigione ottennero subito una grandissima celebrità. La sola esposizione del Miserere fu in breve tempo diffusa in 13 edizioni diverse e ne crebbe ancora più la fama quando Martino Lutero la pubblicava in Germania l'anno 1523 con una prefazione in cui dichiarava il Savonarola precursore della sua dottrina. «Sebbene», così egli diceva, «sebbene ai piedi di questo santo uomo sia ancora attaccato del fanco teologico, egli ha non di meno sostenuto la giustificazione per mezzo della sola fede senza le opere, e perciò venne bruciato dal Papa. Ma ecco, egli fife in benedizione, e Cristo lo canonizza per mezzo nostro, t'offessero pure il Papa e i papisti creparne di rabbia». Quando però a combattere questa sentenza del grande riformatore non bastassero le cose già dette, basterebbero certamente gli ultimi attimi del Savonarola e l'ultimo scritto che egli poté comporre nella prigione. Scritto che di certo avrebbe levato ogni dubbio anche dall'animo di Martino Lutero quando egli lo avesse letto. Il carceriere, come seguiva sempre a chi avvicinava il Savonarola, acquistò per lui una grandissima venerazione e più volte lo pregava che volesse lasciargli un qualche ricordo intorno al benvivere. Ed egli, dopo essersi più volte scusato per avere le membra tutte lacere e mancargli la carta, dovette finalmente cedere e sulla coperta d'un libro scrisse una regola del benvivere che, conservata con molta devozione, venne poi stampata. «Il benvivere», egli diceva in essa, Il ben vivere dipende tutto dalla grazia, onde bisogna sforzarsi di acquistarla e quando si è avuta di accrescerla. L'esaminare i nostri peccati, il meditare sulla vanità delle cose mondane ci indirizza alla grazia. La confessione e la comunione ci dispongono a riceverla. Essa è certamente un dono gratuito di Dio, ma quando abbiamo un forte disprezzo del mondo, un forte bisogno di volgerci alle cose spirituali, allora possiamo dire che se ancora la grazia non è in noi, certamente s'avvicina. Il perseverare poi nella buona vita, nelle buone opere, nella confessione e in tutto quello che ci ha avvicinato alla grazia è il vero e sicuro modo di accrescerla. A chi ora non vede che questa è dottrina puramente e esclusivamente cattolica e che il Savonarola, sino alle ultime ore della sua vita, restò sempre conseguente a se stesso, noi davvero non sapremmo trovare altri argomenti a persuaderlo.